dinamiche. Dopo gli attentati di Parigi, la Commissione europea pare aver preso in mano questa faccenda e aver messo tra le priorità anche il controllo del commercio di armamenti. Vedremo se lo faranno, perché spesso e volentieri negli anni passati sono stati solo degli annunci. Diciamo che tutto questo impallidisce però rispetto al controvalore vero del commercio di armi tra virgolette legale, perché gli ultimi dati di produzione, di fatturato delle industrie della difesa portano a un fatturato di 400 miliardi di dollari all'anno. È chiaro che i veri soldi si fanno da un'altra parte sulle armi, anche se purtroppo invece i morti si fanno con le armi leggere, e che sono quelle più facilmente diffondibili. Ovvio che il mercato dipende in questo caso molto più dalla domanda e dell'offerta. Sì. E quindi un Kalashnikov in certe zone dell'Africa, proprio per la diffusione che vi ho detto prima, costa una gallina. Magari un Kalashnikov comprato in Europa, in Belgio, per poi andare a fare un attentato, può costare 200, 300, 400 euro. Ecco, è chiaro che in quel caso conta molto il tipo di contesto. Se è un contesto di controllo molto alto, come può essere quello dei nostri paesi, ovviamente lo stesso pezzo vale di più o costa di più. Se invece siamo in una zona distrutturata e prona alla violenza, o dove la violenza è abbastanza diffusa, spesso e volentieri un Kalashnikov appunto lo si porta a casa per poco o nulla. E dura legge del mercato, ovviamente, come tutti gli altri diversi beni. Ahi noi. L'ultimissima domanda, sempre relativamente al mercato: che ruolo gioca internet e quanto facilita il commercio, o se si tratta comunque di un mercato dalle fattezze ancora arcaiche, quindi che non utilizza il web per ampliarsi? No, questo sicuramente invece, come in tutte le altre cose, anche in questo caso il web ha moltiplicato l'opportunità. Se negli anni 70 uno per procurarsi una pistola doveva conoscere certi giri, conoscere certe dinamiche, e quindi era difficile perché doveva comunque entrare in contatto con diverse persone e nel caso sbagliare percorso, sia nel senso che veniva preso dalla polizia o nel senso che non arrivava a ottenere quello che voleva, il web permette di moltiplicare le occasioni di questi contatti, quindi di renderlo anche più facile e più anonimo. Non parliamo poi degli Stati Uniti, dove la vendita di armamenti, come sappiamo, è molto molto poco regolamentata e lasciata molto libera per tutta una serie di dinamiche, e in quel caso non c'è bisogno di andare su internet per trovare il trafficante, magari serve solo andare su internet per acquistare online, come chiunque di noi farebbe con un libro o con un piccolo elettrodomestico, anche l'arma. Di recente è stata pubblicata un'inchiesta che dimostrava come addirittura si potessero acquistare dei lanciarazzi o dei lanciafiamme su internet legalmente negli Stati Uniti. Ecco, è chiaro che in quel contesto, che non è il contesto, se vogliamo, delle zone degli armamenti, ma che è un contesto anche lì di mass shooting e di attacchi terroristici o no che siano, è chiaro che l'accesso all'arma è una cosa, secondo noi, molto problematica. Non è certo l'arma che ti fa commettere un omicidio, perché non è che si imposta della tua mente, però se tu hai a disposizione delle armi, come è successo anche recentemente a San Bernardino, poi quando ti viene la volontà, sia per follia o sia per scelta lucida, di ammazzare qualcuno, il risultato è che muoiono decine di persone, e questo ovviamente è colpa, sì, degli armamenti che sono di facile accesso. Grazie mille Francesco Vignarca per essere stato con noi. Grazie a voi. Una piccola pausa, tra pochissimo Nessun Luogo sarà lontano e torneremo ad occuparci del traffico illegale di armi. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, puntata speciale tutta dedicata all'analisi del traffico di armi dopo i recenti tragici fatti di Parigi.

seguitemi se volete sui social. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci che vi ricorda che nessun luogo è lontano.